fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è siamo dubbio. Tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate sì. di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con questa storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ci sarà l'obbligo di Gay Pride obbligatorio per tutti. Già vedo Parenzo sul camion che sculetta. Lei è ossessionato dai gay. Hanno messo in mezzo D'Alema in questa storia di presunte tangenti e finanziamenti. La cosa incredibile, perché questa cooperativa, adesso lo riassumiamo in maniera molto molto breve, sì. questa cooperativa che avrebbe pagato una tangente al sindaco Dischi, in realtà ha finanziato anche la fondazione di D'Alema, ha comprato 2000 bottiglie di vino da D'Alema e anche dei libri dello stesso D'Alema. E quindi? Che non, beh, quindi insomma, tozzeria. Beh, no, che tirarlo cosa? In ballo è una zozzeria. Ma spiegherò. Tu sei veramente. Momento, spiegherò nel corso della trasmissione. No, tu sei veramente diventato zozzeria. L'ultimo giapponese, cioè sei il difensore del Partito Democratico. In altre occasioni. Momento. No, non no, mi no. pare che D'Alema sia in grandi rapporti col signor Renzi. Un momento. No, lo aspetta. Possiamo spiegare in un minuto e 44 no, secondi. No, ma non c'è bisogno. Il problema fondamentale è questo: che quando si tratta delle intercettazioni degli altri, zozzeria. Tu pucci il biscotto. No, pucci, no, no. Come no, me lo ricordo bene. No, zozzeria. Adesso invece definisci. Anche qualora riguardasse Verdini. Non è vero, o quant'altro, l'hai sempre fatto. Perché Verdini è indagato in alcuni processi. D'Alema non è. È stato tirato in ballo in una vicenda che, secondo quanto dicono i giudici stessi in quelle carte, non c'entra vabbè, nulla. Comunque la difesa è di come se. Ma no! È come fammi se. Fammi sentire D'Alema. Domani arrestano Cruciani? No, scusami, domani ti arrestano, no? Sì. T'arrestano. Sì. A un certo punto, nelle intercettazioni, salta fuori che al telefono con me, sì. io ti dicevo delle cose, dicevo, guarda, mi compri i miei libri. E ti arresta. E dici, che cazzo c'è? Hai comprato i libri miei, romanzo Badano, e quindi che c'è da Parenzo? Niente, hanno arrestato Cruciani, Parenzo non c'è niente. Ridicola tesi di Parenzo, D'Alema. È veramente incredibile che intercettazioni che non hanno nulla a che vedere con l'indagine in corso, la quale riguarda un'ipotesi di reato precisa, quindi... È veramente incredibile, perché la giustizia non può avere come fine sputtanare le persone, deve avere come fine la ricerca dei responsabili dei reati, diciamo. Diciamo. Però ragazzi. Ha ragione. No, ragazzi, sì, certo che ha ragione, ma. Oh. Ma certo, ha perfettamente c'entra, ragione. No, ma il mio discrimine c'entra con l'inchiesta. No, ma lascia ma perdere, no, ragazzi, non dobbiamo. Ma no, no. D'Alema è stato uno di quelli, insieme a tutti i dirigenti della sinistra italiana, che hanno sfruttato qualsiasi tipo di intercettazione, qualsiasi tipo di spiffero contro Berlusconi ma e i loro avversari. Fermo. Ma c'erano ipotesi di reato. Sempre, anche quelle che non c'entravano, anche le intercettazioni che non c'entravano hanno sfruttato. Quella è una porcheria. Sempre le hanno sfruttate. Sempre e le hai sfruttate anche tu contro Berlusconi e contro. No. Come no? Ancora D'Alema, senti sul io vino. Io parlavo di indagini. Su via, poi scusa, ma spiegami una cosa: perché la cooperativa? Perché una cooperativa deve comprare i libri di D'Alema questo e i vini di D'Alema? Discorso. No, è il discorso fondamentale, perché questa è roba un reato qui dimostra. Il vino di ma no, non c'è nessun reato. Dimostra chiaramente i legami molto stretti, se mai ce ne fosse bisogno, tra le cooperative e la sinistra italiana. D'Alema. lei a chiedere di comprare le 2000 bottiglie di vino, per lasciamo stare il vino, che non c'entra nulla con l'inchiesta di cui si tratta. Il fatto che la mia famiglia produca vino in un'azienda, fra l'altro ottimo, quindi che abbiamo più domande che l'offerta, quindi non abbiamo problema, che il favore è riceverlo, non è venderlo, diciamo. Sì, sarà anche come racconta D'Alema. No. Ma mi sembra che fisica. Aspetta, sarà anche come racconta D'Alema. Però, nel marzo dell'anno scorso, stiamo parlando del marzo dell'anno scorso, dunque un anno fa, senti cosa diceva a proposito di cosa porta il vino, se guadagni, perdi. Lui dice che c'è più domanda dell'offerta, no? Cioè, non sanno dove. Cioè, non sanno come produrlo in realtà, perché c'è troppa hanno domanda. Hanno tante richieste. Cioè, lo vendono tutto tante questo. Tante richieste, molte superiori. No, ma senti invece cosa. Sì, cosa diceva un anno fa, signor D'Alema, senti. Bisogna avere un hobby nella vita, no? Il vino è una grande passione. Beh, poi chi se ne occupa più costantemente è mia moglie, che segue i destini di questa piccola azienda che per ora produce fondamentalmente debiti più che produrre vino, diciamo. Allora, o li vendete tutti o produce debiti. Ma secondo era me una startup. Comunque, come dite perdere. Voi che fate il sole 24 Dai, ore io era non faccio una nessun sole 24 di parte... ore. Beh, cosa facciamo? No, non mai scritto una riga. Mai. Sì, forse qualche volta, raramente. Tanti anni avrò scritto due articoli, per siamo fortuna. Siamo in un contesto economico, sono per fortuna per tutti. Startup. Al signor De Luca, che se ne fotte del fatto che è condannato in primo grado per abuso d'ufficio e dice che Renzi è con lui. Grande coerenza del Partito Democratico. Ma veramente qualcuno può pensare che io stia facendo questa battaglia senza che Renzi condivida, approvi e sostenga? Ma si può essere così idioti? Hanno paura. Che bel, che meraviglia. Andremo avanti. Governeremo la Campania. No, a me fa impazzire, per carità, è meraviglioso, è stupendo come personaggio, lo sapete, lo adoro, è stato più volte ospite qui, penso anche che abbia ragione nel merito, ma questa è una mia idea, non me ne frega niente, poi ci sono le carte processuali e i processi a doverlo dire. Però, ragazzi, evidentemente mettono pure pressione alla magistratura queste cose qui, no? Perché c'è un candidato del Partito Democratico che non si ritira nonostante una condanna di primo grado, il Presidente del Consiglio che l'appoggia, insomma, il giudice che lo deve condannare in secondo grado, deve avere proprio, no, le palle ferrate, come si dice, no? Mi è capitato di avere un colloquio qualche giorno fa con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti. Eravamo lì seduti a Palazzo Chigi, in un clima di grande cordialità, e cominciano le agenzie. Hanno chiesto il passo indietro. Per la verità mi hanno chiesto tutto il contrario. La parola d'ordine del colloquio era avanti Savoia. Se siete obamiani, forward, avanti. Beh, amico mio! Stupendo. Allora, la Biancofiore insiste, il 90% degli uomini va a prostitute. Il 90% degli uomini va a prostitute. L'ha già detto da noi, l'ha ripetuto anche Piazza Pulita, è convinta di questa cosa qua. Il 90% dei maschi italiani sono andati a mignotte. Poi io ho recentemente detto che purtroppo dice, è vero che il 90% degli uomini di reagire. Ma sono mangiati, si sono se mangiati viva, se perché no io dico sempre grande verità. Il 100% non lo so, ma se no non ci sarebbe mercato. Non ci vado comunque. Io di sicuro. Ma quello era il tuo amico Fiano, se non sbaglio, che diceva sì. Il 90% non lo so, se no non ci sarebbe mercato. Ma ragazzi, ma si può dire una cosa del genere? Il 90% vanno a prostitute? Dai, su, ma è sbagliato, proprio tutto sbagliato. Non è vero, è falso come dato. Non è vero che il 90% degli uomini italiani va a prostitute, ma lo possiamo chiedere anche ai nostri ascoltatori. È evidente che non è così, chiaro, lampante. Allora, c'è una frase che mi ha colpito oggi di una signora grillina, la signora Ciprini. Senti questa cosa qui, attenzione, concentrazione, popolo della radio, sentite questa roba qui. Una deputata del Movimento 5 Stelle, che ho contribuito, adesso ti anticipo, a portare in Parlamento, si chiama Ciprini, sostiene che l'Unione Europea vuole svirilizzare l'essere maschile. Ti giuro, ha detto così, svirilizzare l'essere maschile. Mi dispiace perché hai contribuito ancora. Vabbè, una l'ho volta, già detto, l'ho già detto. Hai contribuito. Queste però sono le radici anche del mainstreaming del genere colpevole portato avanti dall'Unione Europea, volto alla svirilizzazione e svalorizzazione dell'universo maschile, che vede l'uomo come essere brutale, violento, portatore di una colpa ancestrale in quanto maschio. Ma questa è oltre, siamo oltre la supercazzola qui, siamo oltre la supercazzola. Penso che parleremo poi nel corso di ma questa lunga diretta. Ma è con noi invece, voi vi aspettate un esponente della sinistra PD sulla legge elettorale, vi aspettate qualcuno sulla riforma costituzionale, vi aspettate qualcuno sulle tangenti del PD, eccetera. Beh, sì. Ma noi abbiamo, io non capisco perché, comincio a essere circondato da animalisti, vegetariani, vegani, gente che pensa che gli animali e gli uomini sono la stessa cosa. Ce ne sono sempre di più e questa cosa mi preoccupa assai. Non credevo che anche il mitico, come dire, l'irraggiungibile Valerio Merola, beh, si fosse incamminato sulla strada del vegetarianesimo. No. Signor Merolone? Beh sì, Valerio, come stai? Ciao, buon signor Merolone. Buon pomeriggio a voi. Come andiamo? Tutto benissimo. Ma davvero, grazie. Davvero, ma stai cominciando a mangiare solo bacche, verdure, hai eliminato qualsiasi come cosa, sei avviato sulla strada del vegetarianesimo, del veganesimo, che ne so, o no? No, assolutamente no. Ma perché come no? Diciamo, essere animalisti non prevede per forza di essere vegetariano. Io sono profondamente animalista, ma diciamo mangio carne di pesce, quindi non sono assolutamente. Ah, però la carne l'hai eliminata. Non mangio la carne di animali da allevamento a quattro zampe, insomma. Beh, per motivi anche di salute, non solo di natura etica. Se mangia il pesce, beh, ammazzi i pesci, però, ammazzi i pesci. Prediligo quelli di allevamento, che perlomeno so che nell'allevamento dei pesci non ci sono le atrocità che ci sono negli allevamenti dei polli, dei tacchini, delle mucche. Che se ognuno di voi, qualche ascoltatore, si prendesse la briga di vedere un video di un allevamento di polli intensivi, non sono sicuro che non mangerebbe più pollo in vita ma sua. Guarda, io ho visto un sacco di video di questo tipo e ho continuato a mangiare pollo come un pazzo, anzi ti dico ho visto dei video per curiosità e ho continuato come un pazzo a mangiare il pollo perché il pollo mi piace tantissimo. Però se hai fatto caso, se per caso hai la fortuna di mangiare, tu che lo mangi, un polletto di allevamento naturale, cioè che razzo. Sì, non c'è dubbio, quando tu te però, lo metti in bocca, scusami, la carne, Valerio ha ragione. Invece buonissimo. Quello del supermercato ti si scioglie come marmellata in bocca. Quello è un altro. È stato pompato con i medicinali, chiuso in una gabbia, non ha mai camminato nella sua vita. Quell'animale lì, secondo te, non sviluppa delle cellule che possono essere pericolose se ingerite? Ma sì, ma non c'è dubbio, questo è un discorso molto lungo. Io voglio mangiare l'agnello a Pasqua. Me lo consigli l'agnello, caro Valerio? Io sono assolutamente tra quelli che reputano dei cannibali quelli che mangiano gli agnelli a Pasqua. Ma per no, fortuna, ma perché cannibali? Tu non sai come arrivano questi agnelli, non sai come sono stati trattati anche loro per farli crescere rapidamente per diventare appunto agnelli. Ma ci sarà una strage a Pasqua? Ci sarà una strage secondo te? Guarda, ti devo dire che gli italiani, ci sono dei dati precisi, è diminuito del 30%. Sì, ma perché c'hanno una lira forse? No? Il consumo, no, guarda, sai che purtroppo sono carni molto. Vabbè, Valerio Merola, ormai praticamente convertito alla religione della brambilla. Siete due bastardi nel senso buono che non si può fare a meno di ascoltare, tanto per cominciare. Allora, abbiamo scoperto un Valerio Merola, ex Merolone, praticamente convertito al... Anzi, devo dirti la verità, Parenzo, che Valerio Merola, che tutti conoscono ovviamente per tantissime cose, fa parte del movimento della brambilla Coscienza Animale. Ora io dico una sola cosa. La coscienza degli animali, amico mio. La coscienza degli animali. Ora, vuol dire che gli animali... Migliaia e migliaia di aderenti. Sì, vabbè, d'accordo, però la coscienza degli animali non si può sentire, oggettivamente. Ma perché? Ma ognuno ha il diritto di... Io, per esempio, ho mangiato anche i cani. In Corea ho mangiato i cani. Non dirmi questa cosa, no, sono costretto ad attaccare. Ho capito, ma l'ho fatto. Te lo dico. Merola, questo è drammaticamente vero. Sono costretto ad attaccare. Non attaccare, però ti dico che l'ho fatto così per provare. L'ho fatto per provare, ragazzi. L'ho fatto per provare. Ognuno, ragazzi, voi siete una trasmissione straordinaria. Questo ve lo dico non per piaggeria, ma perché lo penso veramente. Comunque, io. L'ho fatto per provare, Valerio. Che devo fare? Volevo provare. La brambilla, al di là delle idee politiche, perché ognuno. Ma scusa, sei d'accordo su questo fatto che vuole punire quelli che allevano i conigli? Allevano, allora, non che mangiano, allevano, vuole punirli. Allora, ci sono degli animali che sono considerati di affezione. So che fa un po' ridere, ma il cane ovviamente, il gatto. Vabbè, il cane e il gatto, d'accordo. Diciamo, lei ha fatto un ragionamento in base al quale anche il coniglio può essere considerato un animale. Tu sei d'accordo, sì o no? Io non mangio coniglio, quindi io sono d'accordo non all'estremismo, ma sono, cioè, il coniglio va protetto, il coniglio tutela va protetto. Tutela maggiore degli, cioè, animali. Non bisogna mangiare il coniglio, dillo chiaramente. Anche per la salute, a tutela della salute, dai, vi garantisco che gli animali. Ma è buonissimo il coniglio, ma è buonissimo il coniglio, è ottimo. Carità, ma io non discuto, però vi garantisco che come sono allevati in forma intensiva, i medicinali che gli vengono somministrati. Scusa Valerio, ma tu fai anche macellati, non sono salutari. Ma tu fai anche il consulente per la signora Brambilla? Sì, dai qualche consiglio. No, faccio parte dell'associazione, ho fatto tante battaglie con lei, sono orgoglioso delle. Beh, sei una specie di consulente. Una di queste è Green Hill, siamo riusciti. Sì, lo so. Siamo in maniera molto. Però scusa Valerio, voglio chiederti una cosa, che non c'entra niente con gli animali, ma hai sentito questa storia? Innanzitutto tu hai qualcosa in comune col signor Rocco Siffredi, bisogna dire con la verità. Con chi? Col signor, scusa? Col signor Siffredi, conosci il signor Siffredi? Ieri lui ho visto che lì all'isola si è convertito, quindi praticamente sono rimasto un esemplare unico ormai, come i panda. Esatto, sono bravo. Sono quasi tutti estinti quelli della mia razza, diciamo. In che senso? Sono, che dovrei razza? Essere una specie protetta, perché non lanci un appello per bravo. Che sia protetta? Ormai via si fa. Beh, scusa, però le dimensioni non cambiano anche se uno lo mette a riposo, Cioè se uno lo mette a riposo, oppure tu dici che senza allenamento un po' si perde. Vabbè, è sempre un muscolo. È sempre un muscolo per cui senza allenamento si perde. Ma per quello si chiama il merolone, non lo sapevo io questo. Certo, ma che non lo sai, Parenzo? Ma no. Sei impazzito, sei. Io pensavo fosse uno pseudonimo, Alessandro il Grande, no? Alessandro Magno. Pensavo fosse così, come dire, no? Scusa, però Valerio, so che sei una persona di spirito, eccetera. Per cui possiamo scherzare su questo. Tu stesso hai detto, commentando l'Isola dei Famosi, abbiamo qualcosa in comune io e Rocco. No, l'hai detto anche tu. Per cui adesso non stiamo qui a. No, ma Rocco, io ho fatto l'opinionista in tante puntate proprio per una televisione, diciamo, concorrente alla Rai, ma per l'Isola, e ho sempre detto che per me il vincitore morale è Rocco. È Rocco. E hai qualcosa in comune con Rocco. Beh, dicono. No, ma dicono, dai, su. Esattamente, qualcuno l'avrà fatto. Le misure del merolone non sono mai state rivelate, e qui io voglio alle 18:53 fermate le rotative che qualcuno mi riveli e qualcuno giornale fondato nel 1876, fermate le rotative, cari amici. Cioè diventa uno scoop. Vai, dimmi Valerio, dimmi la verità. I vini, le robe, definitiva. Guarda, no, giuro che non le conosco. Ma ecco, dai, sono su. Sincero con voi. Oltre i 20 siamo. Oltre i 20 sicuro, perché sennò diciamo che stava a parlare. Diciamo che il soprannome ha un suo fondamento. Il soprannome ha un suo fondamento. Siamo sui 25? Possiamo dire sui 25? Possiamo dire sui 25 o no? Senti, io ho scritto un libro molti anni fa, Il diavolo di un angelo, dove alla fine ringraziavo le meroline, cioè quelle che erano state le mie fidanzate. Rileggi, lo vendono ancora su eBay. Ma lo dicono loro? Lo dicono loro? Magari puoi avere delle conferme, non lo so. No, ma le conferme no, voglio che lo dicessi tu. Le vere misure, quali sono? Non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto, ma non è vero, a parte che non è vero. Non la trovo di necessaria. Non c'è niente di necessario, perché. Ma però, recentemente anche Luciano Moggi ci ha detto che c'è una roba pazzesca, per cui ormai siamo proprio al coming out su questo. Adesso parlando di animali, di animalisti, di salute, è arrivato su questo. Capisco che fa effetto un po' più, diverte di più questo, lo so. Beh, siamo lì però, L'argomento è quello, però, diciamo, non è molto. Senti, ma chi mangia invece le nutrie? Chi mangia le nutrie? Come lo consideri? Beh, guarda che qualcuno mangia le nutrie anche. Guarda, io non sono talebano. Porcheria. Con chi mangia la carne, per carità, c'è chi lo è. Allora, fa parte della nostra associazione la coscienza degli animali, il la coscienza Veronese. Degli animali, amico. Cioè, non è che è proprio l'ultimo arrivato, no? Cioè, è un oncologo di fama internazionale. Veronesi sostiene. Senti, ma tu chi maltratta gli animali, che cosa in carcere lo manderesti? Sì. Per alcuni maltrattamenti assolutamente sì. No, adesso non voglio essere cruento, ma quelli che hanno buttato recentemente dei cuccioli nel cassonetto perché volevano carcere, disfarsene, carcere, cioè, carcere. Ma dai, ma allora, io sono convinto che gente che è capace di questi gesti è capace di ammazzare, è capace, ma sicuramente con gli uomini non è tenero, guarda, potrebbe. Va bene, Valerio, anche con gli uomini. Ciao, ti abbraccio. Questa ciao. È una cosa molto seria. Ciao, ciao, grande ciao. Ciao a voi. Cruciani, datti una calmata, dai, capito? Cruciani, dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere. Cruising down on the motorway, got my girl by my side. Qui alla Zanzara un Rocco Siffredi versione Family Day, diciamo, versione famiglia, sì. Una persona che versione dice versione Giovanardi. Beh sì, quasi versione Giovanardi, la moglie, i figli, la volontà di lasciare il porno per i figli, la dipendenza dal sesso, il desiderio a un certo punto per questa dipendenza dal sesso di ammazzarsi. Sarà vero? Bah. Io gli ultimi fine anno 2014 ho passato veramente delle serate terribili. Andavo in macchina velocissimo, mi volevo ammazzare, ma non sto scherzando, cioè speravo nel perché avevo di nuovo ripreso quella strada della dipendenza in maniera estrema. Tutto, chiunque, qualsiasi cosa, più schifosa era meglio era. Sai come l'ha chiamata questa dipendenza? L'ha chiamato l'impulso. Senti. L'impulso dell'uccello. Quando ti prende terribile, tu non capisci più nulla e decide tutto lui. Ma c'è, che cazzo vivi a fare? E poi la conferma col porno chiuso. Io farò la regia, produzione, come so fare molto molto bene ed è quello che mi piace fare, però l'uccello fuori non lo tiro più, mi dedico solo a mia moglie, chiuso. Creda nel bene e se credo nel male io credo alla parte opposta, che è il demonio. Sì, per vabbè. Me il male è il vabbè, demonio. Tu credi nel demonio, io non ci credo nel demonio, sì. Non ci allora, credo nel io demonio. Invece ti posso non dire. Non ci credo nel demonio, siamo. Chiaro? Tu non ci credi, sai perché? Perché? Tu, però, guarda, te lo dico con non con disprezzo, ma tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Non si può escludere questo. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire. A che cosa? Perché scusa? Mi fai tanta pena. Tanta pena, Per la rabbia. Scusi, lei ha mai commesso atti impuri? Ha mai commesso atti impuri, ma signora Luisa? Con mio marito, sì. Con suo marito, ma atti proprio impuri. No, no, non penso, sto benissimo, sono una donna felice, ho quattro figli. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. A Istanbul un comando armato di un'organizzazione marxista-leninista ha preso in ostaggio un magistrato, minaccia di ucciderlo, è in corso una difficile trattativa. Passi avanti verso un accordo sul programma nucleare iraniano nei colloqui a Losanna in Svizzera, trattativa oltre il termine della mezzanotte se sarà necessario. A sorpresa risale la disoccupazione a febbraio al 12,7%, le donne sono le più colpite. Sindacati preoccupati, governo dati non contraddicono segnali di ripresa. All'8 aprile la legge elettorale in commissione alla Camera, più aspro lo scontro al PD, Renzi, basta ricatti, la minoranza battaglia in aula. Sandro Bondi, uno dei fondatori di Forza Italia ed ex ministro, lascia il partito, con lui anche Emanuele Repetti, i due senatori al gruppo misto, Toti, buona fortuna. L'inchiesta sulle tangenti per il gas a Ischia, i soldi delle mazzette nascosti in un passeggino, il commissario Cantone chiede gli atti dell'indagine. L'Aquila, 6 anni dopo il terremoto, il comune annuncia la fine degli aiuti economici per gli affitti delle case, da domani in 1000 saranno abusivi. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Allora, due cose che forse vi fanno incazzare. La prima, ho scoperto... Poi notizie da Padova, eh? Sì, ho scoperto oggi, anzi l'altro giorno, che in Italia esistono un sacco di commissari straordinari, no? Uh-huh. Si sa, l'Italia è il paese dei commissari straordinari, quando c'è un'emergenza si nomina un commissario. Ebbene, esiste un commissario, non ci potevo credere, per gestire i fenomeni delle, il fenomeno delle persone scomparse. Cioè, non bastano i magistrati, i carabinieri, la polizia, chi più ne ha più ne metta, gli investigatori, eccetera, eccetera. No, c'è il commissario per gestire il fenomeno delle persone scomparse. Prende più di 44.000 euro l'anno, si chiama, credo, Piscitelli. Beh, ma è una gran cifra, ma, quanta, adesso, ma non lo so, non mi interessa, esiste il commissario 40.000 euro per, no, all'anno, per gestire, sono 1.800-2.000 euro ma per, al mese. Sì, ma farà un altro lavoro, ma per gestire il fenomeno delle persone scomparse. Sì, sì, no, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ma di cosa parliamo? No, no, ma non c'è dubbio, c'è chi l'ha visto. Poi c'è un'altra cosa, mi dicono che la mia amica Alicia Ronzulli è stata piazzata da Berlusconi, che evidentemente, oltre alle spaccature del suo partito, si interessa di altre cose, è stata incredibilmente piazzata vicepresidente della Fiera di Milano, no? Vicepresidente della Fiera di Milano, cioè ancora esiste la lottizzazione. Cioè la lottizzazione vera e propria, al di là della persona, è un ente, no, ma è incredibile, dove ancora è prevista la nomina o l'intervento, no, dei, ma, politici, e ma quello piazza, io, e quello fa il suo. A parte che non credo che sia statuito che un partito, che Forza Italia, abbia diritto ad una persona e gli altri abbiano diritto ad un'altra. Ma sull'ente fiera? Ma non credo che proprio Forza Italia, cioè Forza Italia o Berlusconi, eccetera. Sì. Comunque, ragazzi, diciamo la verità, è incredibile, ancora esiste la lottizzazione all'ente fiera di Milano, il signor Ronzulli, ma non solo, il signor Attilio Fontana, ex presidente della provincia di Varese, se non sbaglio, leghista. No, sindaco di Varese. Sindaco di Varese, è stato piazzato anche lui, evidentemente. Ma vedere come funziona, perché evidentemente... Ragazzi, sono nomine politiche che con la competenza, come è evidente, non hanno nulla a che fare, diciamo la verità. Sono nomine politiche, certamente. Con la competenza hanno qualcosa a che fare, con la competenza, con i curricula? Dimmi, beh, dimmi la verità. Dimmi la verità, hanno a che fare. Ma mi preme molto di più alle 19:25:20 secondi ricordare l'ultima impresa di un signore che governa al momento, che la ha fatto, città Bitonci. di Padova. Sì, che ha fatto? Sembra quasi certo che ha vietato il signor Bitonci la vendita dopo le ore 20, sì, sì, del kebab in stazione. Vabbè. Ora, cari amici, no, no, cosa, vabbè. Vabbè un cazzo. No, no, ora, cari amici di Padova, la rivolta. Troviamoci tutti a Pasqua, sarò a Padova a mangiare. Ma non posso, credo perché che sia è la così. Pasqua non ebraica. Credo, non credo, ma che sia così. Mangiamo il kebab dopo le 20, in stazione, all'Arcella, ovunque. Kebab, kebab, kebab, kebab. Dove andiamo? Mario Brescia, Mario, vai. Sobrio, moderato, appello. Dimmi. In stile anglosassone. Buonasera. Buonasera a tutti, escluso campione mondiale che ha le impeccature sugli specchi, cioè il signor Parenzo. Sì, buonasera a casa. Buonasera. Volevo comunicare che ieri ho avuto una notizia che mi ha lasciato anche molto deluso. Sì. In un'operazione di polizia nel Trevigiano hanno fatto dei blitz nei campi nomadi. Sì. Arrestato, ha trovato di furtiva, arrestate varie persone, tra le quali non c'è nessuna novità, questa non è una notizia, diciamo, no, no, no. Sì, no, no, non è più una notizia, non è più una novità. E allora? È di ieri. È trovato tra questi il figlio del povero brava persona uscita dal benzinaio. Cioè il figlio del rom ucciso dal benzinaio da Stacchio, lo hanno trovato con le mani della marmellata, diciamo, arrestato, esatto, perché è autore di diversi furti. E io che credevo a Parenzo, a quello che dice Parenzo, che queste persone sono dedite alla beneficenza, mai al volontariato, sono mai rimasto detta. Deluso. Cioè ti aspettavi che il figlio di quello ammazzato da Stacchio, del rom lì, fosse, diciamo, un artista, fosse magari un cooperante, avesse un lavoro normale? No, non è così. Infatti, era un ladro. Come era un ladro. Come il padre era un ladro. Vabbè, ma è normale. Per Parenzo è tutto normale. Tutto normale. Tutto normalissimo. Anzi, probabilmente sono distorsioni del sistema. Ah, cioè voi siccome state sostenendo. Io ho detto semplicemente che voi è un ladro, state punto. Sostenendo che se il padre è un ladro, anche il figlio sicuramente sarà. Io ho detto ladro. Che in questo state caso sostenendo questa simpatica tesi valida, assolutamente. Erga omnes, come no, no, no, non è così, non è così, non è così come molto dici, bene, non è così come dici. Benissimo, benissimo. Mario, tu che cosa vuoi dire invece? Che tale padre, tale figlio? Io ci sono rimasto male, nel senso che perché? Aspettavo che fosse dedito alla beneficenza, Cioè ti ha sorpreso questa cosa, ti ha molto sorpreso. Beh, effettivamente anch'io sono rimasto sorpreso. Arrestato il figlio del Rom, ucciso da Stacchio, ho detto, beh, che cosa strana, che cosa bizzarra, diciamo, che bizzarria, che stranezza. Tutte brave persone. In quel campo Rom mi sembra che quella famiglia siano tutte persone molto per bene, che accolgono per esempio i giornalisti quando li vanno a intervistare, quando con abbraccia aperte, venite, guardate. Ma può valere per qualsiasi criminale, su. Allora, scusami. Andate fino in fondo dalla provincia e dite di Taranto. Nel 90 non c'è dubbio. Spesso le famiglie criminali. Se dici che non c'è dubbio, arrestateli tutti. Mimmo dalla provincia di Taranto. Arrestateli tutti immediatamente, solo per essere parenti. Fammi sentire. Arrestateli tutti. Mimmo, subito. Fammi sentire. Pronto. Mimmo. Vai, dimmi. Ciao Giuseppe. Dai. Ascolta, Giuseppe, no, volevo fare un intervento, magari non nel tema della serata. Vai, non ci sono temi. Vai dritto, vai. Allora, io sono uno psichiatra e per ragioni, diciamo, professionali mi interfaccio con le problematiche della dipendenza. Che volevi dire sulla droga, dai? Sì, no, la questione è questa, Giuseppe, è importante, no, te lo dico perché tu nel tuo ruolo comunque di divulgazione è importante che dica questa cosa in modo corretto, perché un discorso è la politica della liberalizzazione, è lì... No, della legalizzazione, un'altra cosa, delle droghe leggere, sei pure psichiatra, però, amico mio, cioè siamo all'ABC, perché la liberalizzazione non vuol dire niente, legalizzazione delle droghe leggere è un'altra cosa, cioè, lo spinello legale è un'altra cosa dallo spinello libero, sono due cose molto diverse, fermo lì, Mimmo, fai un ripasso un attimo... Vedi che minchiate che dite, oh. Silenzio, senza interruzioni. Non dite stupidate. Questo non credo. Allora, succede un casino in un campo Rom di Roma, caro Parenzo. Cosa è successo? Che ci sono state delle aggressioni nei confronti dei vigili, eccetera, eccetera. Però succede anche che alcuni di questi vigili urbani hanno usato uno spray urticante per difendersi, dicono loro, nei confronti di una bambina Rom. Di una bambina Rom. Immagino che adesso questi saranno accusati, no, di violenza nei confronti di questa bambina Rom, nei confronti di minori, eccetera, eccetera. Loro sostengono siamo stati aggrediti. Questi con uno spray urticante hanno colpito una bambina. Sai, caro, dimmi. Se tu andassi in una zona popolare di Palermo a Scampia e improvvisamente i bambini di Scampia si scaraventassero contro la polizia e la polizia usasse magari con i bastoni, con i bastoni, certo. Sì. E la polizia di Scampia usasse qualche metodo di troppo, non ci sarebbe questa bagarre probabilmente, no? Sì. Siccome si tratta di bambina Rom, per il fatto stesso di essere Rom, ha meno diritti forse della bambina di Scampia che si scaglia contro la polizia. Non ho detto nulla. Questo per dire che, senza interruzioni, un momento. Questo per dire che per i Rom si usa un peso diverso da quello che lo si usa per i criminali comuni di altre situazioni, vedi Scampia, allora, vedi l'associazione, gente di Palermo. L'associazione Nazione Rom, se uno vuole credere all'associazione Nazione Rom, sostiene: bambini e donne di etnia Rom sono stati aggrediti dal vice comandante della polizia municipale di Roma Capitale Antonio Di Maggio. Stati esplosi colpi di arma da fuoco che fortunatamente non hanno raggiunto nessuno, picchiate alcune donne, usato spray al peperoncino sugli occhi dei bambini, addirittura spray sugli occhi, cioè ma praticamente la verità o no? La polizia di... No! Io voglio sapere la verità, ma non perché sono Rom, perché voglio sapere la verità. È sbagliato? No, per carità. Senza interruzione. Davide da Milano, vai Davide. Buonasera a tutti. Dimmi. Volevo solo dire, visto che hai detto che non c'era tema... Aspetta che stavo finendo con Mimmo. Mimmo, dai. No, non c'è più, vai. Vai, tornando Davide. Tornando sul discorso di Berlusconi e fatto paragone con D'Alema, io non riesco a capire, sei una persona intelligente, capisco che tu sia provocatorio nella trasmissione, giusto così, ma Berlusconi non poteva andare con una persona nel momento in cui si trovava a capo del governo, perché sei comunque ricattabile. Di cosa stai parlando, scusa, non ho capito. Stiamo parlando, stiamo parlando del fatto che tu continui a difendere Berlusconi. No, io non sto difendendo nessun Berlusconi, no? Non è quello il punto. Ma di che stai parlando? Io ho detto semplicemente che c'è una differenza di comportamento da parte di D'Alema, che oggi si scandalizza per la diffusione di colloqui e conversazioni che non hanno nulla a vedere con l'inchiesta, secondo lui, ovviamente, secondo i magistrati evidentemente sì, perché hanno... No, qui sbagli. Aspetta, secondo i magistrati... problema è molto semplice. Queste conversazioni, queste notizie che sono uscite, che non hanno alcun rilievo per l'inchiesta, dice D'Alema... No, dicono i magistrati stessi, no D'Alema! Sì, ma ho capito, ma si sta indagando su questa cooperativa. La cooperativa, tra le altre cose, è venuto fuori dalle carte... Ma io come se ho letto... A me non me ne frega niente, l'atteggiamento di D'Alema è diverso. Io come se ho letto l'ordinanza, È diverso. Quando ci sono cose che riguardano se stesso e quando ci sono cose che riguardano Berlusconi o la destra o altre persone ancora, o la Lega o altre ancora. Ma cioè, quando riguardano se stesso. Berlusconi adesso. Va non bene, c'entra non c'è. Niente. Fammi sentire Davide, che è più interessante. Vai, Davide, dimmi. No, allora il concetto fondamentale è... Qual è? Ti do atto che quando c'è di mezzo Berlusconi si accaniscono molto più. No, ma il problema è l'atteggiamento. La ma frase... non hai indagato D'Alema di nulla. La frase di D'Alema è un'altra. È una porca. Risentiamo la frase di D'Alema, quella incriminata sulle intercettazioni, perché è più interessante. D'Alema sulla non questione capire delle... la questione. Sì, va bene, ha ragione D'Alema. Ha ragione D'Alema. Sentiamo. No, ti ho detto un'altra cosa. Sentiamo. È veramente incredibile che intercettazioni che non hanno nulla a che vedere con l'indagine in corso, la quale riguarda un'ipotesi di reato precisa, quindi è veramente incredibile, perché la giustizia non può avere come fine sputtanare le persone, deve avere come fine la ricerca dei responsabili dei reati, diciamo. Allora, lo sputtanamento degli avversari politici è stato sfruttato a fondo da chiunque, dalla destra nei confronti della sinistra, si e soprattutto di della sinistra. Indagate. No, devi fare una differenza nelle cose, non poi possiamo far polemica su tutto. La questione di fondo non l'hai capita, Davide, dai, non l'hai capita, tanto è inutile. Come, lo sfruttamento delle intercettazioni, lascia perdere gli indagati e non indagati. Lo sfruttamento delle intercettazioni per sputtanare l'avversario politico è stato un'arma fondamentale nelle mani di persone come D'Alema, eccetera, eccetera, contro gli altri. Punto, infatti, e basta. Infatti, indagati e non. Devono cambiare Davide, la legge, vai. Per cui non si possono pubblicare. Ma non lo so, quello è un altro discorso. Questa roba invece di D'Alema è pura ipocrisia. Davide, dimmi. Allora, hai ragione. Ma il punto è solo questo, lascia perdere chi è indagato, chi non è indagato, non c'entra niente. Verrà continuamente utilizzato. Io l'unica cosa che, tra virgolette, volevo mettere un appunto è questo. Nel momento in cui Berlusconi è stato indagato per la storia di Ruby... Vabbè, ma questo non stiamo parlando... Sono due cose diverse. Vabbè, ma certo che sono due cose diverse. Del governo. Ma sì, ma siamo tutti d'accordo che lui poteva andare con chi voleva. Senti. Nel privato lui può fare quello che vuole. Sono due cose... Certo che sono due cose diverse. Il principio è lo stesso. La frase di D'Alema è molto semplice. Le persone non vanno sputtanate. Ed è esattamente quello che ha fatto gran parte della sinistra nei confronti di intercettazioni che sono uscite non solo su Berlusconi, ma anche su altri. Ma l'ha fatto anche... Nicola da Brescia, vai Nicola. Lo fanno tutti puntualmente. No, ma io non sto difendendo quando si tratta degli altri. Nicola da Brescia, vai. Sentiamo Nicola da Brescia, dai, Nicola. Pronto? Dimmi. No, da Bari, non da Brescia. È uguale, Nicola da Bari, vai. Ah, ok, allora è proprio uguale. Allora, una domanda aperta a te, a Parento, a tutti i colleghi radioascoltatori. Ma secondo voi la pippa, come la chiama il buon Giuliano Ferrara, è un qualcosa più vicino alla sfera sessuale o al mondo dei massaggi, delle spa e quant'altro? Perché se io mi posso fare uno shampoo e mi rilasso, mi posso fare un massaggio e mi rilasso, perché non posso andare in un posto e farmi fare una pippa asettica fine a se stessa e rilassarmi? Dunque, perché è strano che questo quesito non sia stato posto nella trasmissione di Barisoni, Focus Economia. Strano. Scusi, Nicola, ma che differenza fa se quello che lei ha detto, cioè se la masturbazione è una cosa che riguarda il sesso oppure che riguarda i massaggi? Per lei che differenza fa? Se riguarda i massaggi dovrebbe essere legalizzata. Ma è di fatto legalizzata. Se lei va in un massaggiatore cinesi qui a Milano è praticamente legalizzata. No, lei è di Bari, se lei venisse a Milano qui è pieno di massaggiatori di massaggi cinesi. Assolutamente sì. È pieno di massaggi cinesi dove alla fine del massaggio, di un presunto massaggio, a un certo punto si va di manovella. Comunque si va di manovella. Ma che è meraviglioso. Pippe, pippe, pippe, come pippe, dice, molte pippe. Questa è Giuliano Ferrara, ragazzi, non lo dico io, Giuliano Ferrara che ha detto, ma che è bell'ambiente. No, non ci dite che poi siamo noi a utilizzare certe frasi. Giuliano Ferrara l'ha detto, l'ha detto Giuliano Ferrara. Esattamente. Pippe, allora, pippe. Nicola, la prostituzione, come dire, cinese in Italia a livello, come dire, di masturbazione, è assolutamente legalizzata, è praticamente legalizzata. E va in moltissimi punti di massaggio. Venga a Milano e le indico io qualche posto. Che la prostituzione va legalizzata, perché oltre credo a racimolare 4 miliardi, correggetemi che voi sui numeri siete più bravi di me, di questo tipo, fino a quando si toglierà gente dalla strada e quant'altro, fino a quando non si arriva a quello, io direi di aprire delle pipperie, se fosse possibile. Ma esistono delle già dei ma legalizzate, si pagano le tasse. È economia, una suo modo. Pipperia legalizzata. Vabbè, adesso la pipperia, non esageriamo, la pipperia, adesso è un tema economico, questo molto importante, quello della legalizzazione della prostituzione. Lei vuole legalizzare le pipperie, ma uno quando non è che può esistere un posto dove si fa solo quella roba lì. Da Bari proporre le pipperie, ho capito. Capisco. Vai, Fabio da Roma, anzi Carlo da Roma. Carlo, vai, dai, Carlo. Luciani, buonasera. Dimmi. La cosa che dà più fastidio in personaggi come Parenzo è questo voler essere i detentori della verità e della onestà assoluta. Ma nessuna verità. No, sì, caro Esprimo Parenzo. Vai, Carlo, vai. Carlo. La verità assoluta, per cui proporrei non la cacciata di Parenzo dalla trasmissione, perché sono un democratico, ma quantomeno ogni volta che lui si pronuncia con questi discorsi che somigliano più ad arrampicarsi più che sugli specchi, sul quali ghiaccio, discorsi? Quello, bro. Tipo il discorso fatto all'inizio per D'Alema, ma Parenzo, non fare il finto burino, che sei molto più intelligente burino, di quanto vuoi dar burino da, sarà lei, da credere, diciamo. È solo che sei il classico utile idiota e servo sciocco di un saluti regime. A casa, grazie. Sì, buonasera. Parenzo, Salom, saluti a Parenzo. Casa. Vabbè, Carlo, allora vai al sodo, Carlo, che vuoi dire? Allora, propongo alla fine di ogni suo intervento di mandare in loop praticamente la famosa battuta del film Troppo Forte, quando Verdone viene mandato via da Cinecittà col famoso questo mo cacciate via. Arrivederci e buona Pasqua. Ciao. Grazie, caro, buona Pasqua. Andiamo a Vicenza, Ennio! Vai, Ennio! Riguardo alla notizia della Biancofiore, che il 90% degli italiani... Togliti dal viva voce, per favore! Mi senti meglio? Sì, vai, forza! Niente, riguardo alla notizia della Biancofiore, che il 90% degli italiani vanno a puttane, secondo me la notizia non è stata data correttamente, nel senso che lei ha detto semplicemente il 90% degli italiani che sono venuti con me hanno preferito andare a puttane. Lei dice il 90% degli uomini che lei ha frequentato, questo. Esattamente, andrebbe fatta la precisazione, anche perché poi quando uscirà che gli altri 10, il restante 10% è andato direttamente a trans, se no se ne ridiscute nuovamente. Ma guardi, io non credo che il 90% degli uomini, come dice la Biancofiore, tra l'altro da noi quando fu ospite alla Zanzara poche settimane fa disse un'altra cosa, che il 90% degli uomini sono andati a prostitute, disse la Biancofiore, o comunque hanno avuto la prima volta, come ha detto l'iniziazione. Marco Bergamo, vai Marco. Marco, vai, dimmi. Bologna. Vai da Bologna. Bene, tutti sbagliati stasera i nomi delle città, vai. Non importa. Comunque buonasera. Vai, dimmi. Volevo puntualizzare su quello che ha detto il signor Merola prima. Anche i pesci d'allevamento non vengono nutriti con pinzimonio o patate al forno, ma con farine di carne. Le stesse farine. A me quando ci sono quando per esempio Veronesi dice, credo al Corriere da qualche parte, che lui è vegetariano anche per salvare il pianeta, io divento pazzo. Perché va bene tutto, lei tratta carni, vabbè, d'accordo, è direttamente interessato, se tutti finissero di mangiare la carne lei andrebbe in rovina. Quando Veronesi dice io sono vegetariano per me stesso, per gli animali e per il pianeta, ecco, per se stesso d'accordo, per gli animali sì, vabbè, d'accordo, uno vuole bene agli animali, dunque non mangia gli animali, per il pianeta, ecco, io sul pianeta ho qualche dubbio, perché uno non è che può dire il vegetariano, cioè se uno diventa vegetariano o vegano salva il pianeta, perché questa è una stronzata, perché allora significa considerare quelli che non diventano vegetariani e vegani come gli assassini del pianeta, come quelli che vogliono distruggere il pianeta. E beh, sostanzialmente è così. Non è così assolutista. È l'estremismo. Il professor Veronesi, ma no, lo io sai, non dico no? Veronesi, però è l'estremismo vegano, l'estremismo vegetariano. Io divento pazzo per queste cose, perché ti considerano una specie di bestia, ti considerano un assassino, ti considerano un distruttore del pianeta. Gli estremisti, e ce ne sono tanti, guarda, dal Merolone a Veronesi. Allora ragazzi, oggi c'è una notizia agghiacciante, eh? Agghiacciante, una notizia che farà il giro del mondo. A Padova vietano il kebab. Vabbè, ma quello non me ne frega niente. Una notizia che farà il giro del mondo, una notizia che sconvolgerà gli assetti politici italiani. Sandro Bondi e la moglie lasciano Forza Italia, sì, il gruppo di Forza Italia bloccato, il grande raccordo non credo domani, che domani bloccato, il New York Times bloccato, il New York Times lui farà un grande titolo: Mr. Bondi e Miss Repetti, Mrs. Miss, quello che diavolo è, lasciano Forza Italia, lì Forza Italia, dai ragazzi, giù. È con noi il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Ciao Alessandro, come stai? Bene. Buongiorno, tutto bene? Bene, bene, molto bene. Come andiamo? Va lì nella plancia di comando dei giornali? Ma non giornali. È la plancia di comando, è in viaggio, credo che sia in viaggio. È sempre in viaggio, Ma la cosa incredibile. Io se rinasco voglio essere Sallusti. Ma perché? No, ma non. Ma guarda, rinasco, ma perché devi essere? Perché adesso se rinasco, ho detto, se rinasco. Allora io voglio dire subito, è vero che hai difeso D'Alema su questa storia delle intercettazioni? Sì, sì, nel merito delle intercettazioni sicuramente. Cioè, a me D'Alema sta molto antipatico, anche se è la persona più antipatica della politica italiana, penso è un pubacchione, è inaffidabile, è un comunista. È un comunista, però, cioè. Insomma, chi compra il vino di D'Alema, a patto che lo fatturi, saranno anche affari di D'Alema, cosa c'entra con l'inchiesta giudiziaria? Però scusami Alessandro, i comunisti esistono ancora secondo te? Cioè, quando tu dici è un comunista, mi dici, me lo dici sul serio o così? Cioè pensi che veramente abbia ancora la mentalità comunista? No, D'Alema è proprio è un classico burocrate comunista, orgoglioso di esserlo, presuntuoso, arrogante della sua superiorità etica. In questo senso gli sta bene, perché chi di intercettazioni ferisce, poi di intercettazioni ovviamente ferisce, è una regola naturale. Ma su questo secondo me ha ragione. Cioè, ed è quello che dicevo io prima e ho detto per tutta la puntata. Cioè, tu non puoi adesso stupirti, dici, oddio, no, è una vergogna la pubblicazione delle intercettazioni, è mi uno sputtanamento. Dal taxi Venezia 33. È uno sputtanamento, ma da dai. Venezia 33 hai mi scrivono, campato, dite hai campato a Sallusti di vergogna, dal taxi c'entra? Venezia 33 in viaggio. Ma su che cosa, scusa? No, su questa vicenda, perché ricordar che Venezia 33 me lo danno detto. Ma che c'entra? Scusa, allora, stanno ascoltando la zanzara. No, non lo so, è un taxi, è un tassista. Taxi. Vabbè, ma al di là di questo, scusa, Alessandro, tu dici lui non si può stupire adesso. Mi sembra che sia questo il ragionamento, no? Non si può stupire adesso che con le intercettazioni si sputtana una persona, no? Quando beh, per una vita. È 20 anni che glielo diciamo, e lui è 20 anni che dietro. Per la verità, come dire, dal punto di vista sostanziale, D'Alema non è stato il peggio dei giustizialisti, essendo anche furbo. Esatto. Però, come dire, non ha fatto nulla per evitare questa situazione, addirittura ci ha marciato più volte, ricordiamo la famosa scossa quando disse sta arrivando la scossa perché i suoi amici PM gli avevano avvisato che stavano per sputtanare Berlusconi sul caso D'Addario. Quindi cioè lui qualche collegamento con i magistrati ce l'ha sempre avuto, dici, qualche legame? Beh, alcuni li ha anche tolti dalle procure, messi a fare i sindaci, tipo Bari, no? Un procuratore che ha indagato, il procuratore Emiliano che indagava su lui D'Alema, sì, sul caso Arcobaleno, quando D'Alema era presidente del Consiglio, guarda caso archivia l'inchiesta e 6 mesi dopo viene candidato da D'Alema a fare il sindaco di Bari. Insomma, è uno che in quel mondo lì ci ha sguardato. Però adesso Emiliano si incazzerà per questa cosa. Tu dici che Emiliano. Ma non è che si incazza, è la storia. Non è che cioè, Emiliano, che è candidato peraltro a fare il governatore della Puglia, se non ci sarà qualcuno del centrodestra per batterlo, se secondo te aveva un legame così stretto con D'Alema da archiviare l'inchiesta su D'Alema? No, io questo non l'ho detto, ho detto che lui ha archiviato l'inchiesta che coinvolgeva il primo ministro D'Alema, e D'Alema 5 mesi dopo lo candida a sindaco di Napoli. Fa riferimento Sallusti alla missione Arcobaleno, sì, se non ricordo no, male. Certo, la missione Arcobaleno. E su questo ci sono già state fior di querele che sono state minacciate. Vabbè, dai protagonisti. Se diciamo uno dice che c'è un nesso, io dico che l'ha conosciuto, perché se l'ha nominato sindaco, candidato sindaco di Bari, vuol dire che mi immagino l'abbia conosciuto. No? Comunque si può dire ad Alema benvenuto nel mondo reale, insomma, benvenuto, no? Esattamente, cioè, benvenuto nel mondo reale, speriamo che adesso ti dai una mossa. Anche se lui è entrato nel mondo reale con la sua spocchia, perché in un'intervista, credo al Mattino, che ho letto stamattina, dice: ma io non sono Lupi. Che lui non fosse Lupi, questo mi sembra chiaro, abbastanza evidente. Poi cosa c'entra che non sono Lupi con questa vicenda qua? Comunque, secondo me lo scandalo vero non è tanto è che qualcuno ancora metta in dubbio il legame tra le cooperative, politico e non solo politico, proprio di strutturale, tra le cooperative e alcuni politici della sinistra, perché questa vicenda dimostra che le cooperative in realtà cosa servono spesso? Le cooperative, credo che l'ascoltatore abbia in mente, quando si parla di cooperative, della Coop dove va a fare la spesa, dice: oh, la Madonna, tutto sto casino per una cooperativa. Sì. Le cooperative sono la più grande multinazionale del paese. Sono l'impresa che nel suo insieme, appunto, di somma di cooperative, che va dal campo dell'edilizia, le grandi opere, l'alimentazione, l'assistenza, insomma, comprende tutto il mondo, è l'azienda che fattura di più in Italia, cioè è un colosso economico che finanzia il partito, partito garantisce attraverso i suoi amministratori locali e nazionali gli appalti alle cooperative ed è un sistema chiuso che si autoalimenta, autogenera. E i risultati sono tu dici è normale, anche certo, c'era una cosa, le coop bianche, una volta c'erano le coop bianche, che sono queste, c'erano le coop bianche, un sistema uguale opposto che aveva messo in piedi la Democrazia Cristiana, per la verità molto meno efficace. Negli ultimi 20 anni quello lì, le coop bianche, sono state sostituite dalla Compagnia delle Opere, che è il braccio operativo di CL, che aveva messo in piedi e ha messo in piedi un sistema di cooperative con lo stesso concetto. No? Però scusa, non capisco allora perché, a parte che le intercettazioni sono pubbliche ormai, cioè le intercettazioni che escono sono pubbliche, dunque si può discutere quanto vuoi di quelle che bisogna pubblicare, quelle che non bisogna pubblicare. Tu metteresti in carcere chi pubblica intercettazioni irrilevanti? Ci sarebbe da fare... No, io non metto, figurati se io metto in carcere qualcuno. So. Io penso che in un paese civile i magistrati devono e non possono allegare agli atti di un'inchiesta delle intercettazioni che non hanno nulla a che fare. L'avete fatto spesso anche voi. Io ho pubblicato le intercettazioni di D'Alema, ma io non faccio il magistrato, faccio il giornalista. E quindi le pubblico e metto in guardia il lettore, dico: te le pubblico. Ma tu dici che è sbagliato e poi le pubblichi lo stesso. No, ma ha ragione su questo, fino a quando c'è una legge che glielo consente. Io non faccio il magistrato, io credo che il magistrato che allega agli atti di un'inchiesta e quindi rende pubblici, e il mio mestiere è portare alla gente. Però sono documenti, sono praticamente documenti pubblici. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te. Questo era il signor Malgioglio. Voglio ricordare a tutti gli ascoltatori della Zanzara che ieri sera abbiamo ospitato il senatore Barani. Senatore Barani di GAL, ex socialista. No, ma di questo vi voglio parlare. Al di là della questione della cocaina, dei deputati, dei senatori, delle accuse rivolte soprattutto ai senatori di ultima generazione che sono entrati in Senato e secondo lui con gli occhi spiritati spesso fanno degli interventi talmente sconclusionati che secondo Barani sarebbero ispirati dalla droga. Dalla droga. Però ha detto anche una cosa pazzesca, te la ricordi, Parenzo? No? Ha detto: con Craxi noi saremmo praticamente al top. Cioè, se ci fosse Craxi oggi in Italia, noi saremmo al massimo. No, disoccupazione. Senti. Ma che ci ridessero di Bettino Craxi, sarebbe un'Italia migliore e diversa, con PIL al 5%, disoccupazione tendente a zero, con un prestigio internazionale incredibile, e i Marò non sarebbero in India. Io trovo che sia una frase straordinaria questa qua di Barani. Vabbè, abbiamo con noi e non credevo nemmeno esistessero i brigatisti, che vedo che hanno preso, sento che hanno preso un ostaggio in Turchia con la stella a 5 punte e la falce e martello. Cioè, ancora esistono questi gruppi terroristici, questi gruppi di pazzi prendono un ostaggio con la falce e martello, cose incredibili. In Turchia? In Turchia. Siccome prima ha detto che esistono i comunisti anche in Italia, Sallusti, evidentemente i comunisti ancora ci sono, molto più pericolosi ovunque, no, Sallusti? Molto più pericolosi. Ci sono, se mi permetti di concludere la cosa, ci sono anche dei PM, perché l'inchiesta di Capri è del procuratore Vutko. Ischia, sì. Ora ti racconto solo un aneddoto. Ah, dimmi, un aneddoto. Io due o tre anni fa, durante la campagna giornalistica della Casa di Monte Carlo di Fini, scrivo un articolo per dire che la Marciagaglia, che si era detta sdegnata di questa campagna, doveva farsi gli affari suoi. Sì. Al mattino alle 6 mi suonano il campanello a casa qui a Milano e mi ritrovo quattro carabinieri, tra cui il capitano ultimo, che è quello che aveva arrestato Torino, spediti da Napoli, da Vutko, per perquisire la mia casa e me stesso. Passano 5 minuti, suona il telefono, altri quattro carabinieri sono nel mio ufficio qui nel giornale. Passano altri 5 minuti, mi chiamano dalla casa che è la mia residenza, che ho sul lago di Como, mi dicono: guardi che ci sono qui quattro carabinieri. 12 carabinieri mandati nottetempo da Vutko per sequestrare i miei telefonini, i miei computer, le mie carte, perché secondo lui facevo parte di un complotto organizzato per non so bene far che cosa la signora Marciagaglia, allora presidente di Confindustria. Ovviamente sono stato prosciolto senza neanche essere interrogato, io non ho più saputo niente di quella vicenda. Sono stato prosciolto in istruttoria. Ma come lo consideri questo Vutko tu? Beh, io considero quello che è successo a me, lo considero da pazzi e da irresponsabili. Ma lui come lo consideri? Uno da, che dovrebbe essere cacciato dalla magistratura da un sacco di tempo? Uno che ha messo in galera, giustamente, sua maestà Vittorio Emanuele di Savoia, poi abbiamo dovuto anche pagare i danni perché non doveva essere arrestato. Io non è che abbia una grande stima di questo uomo. Questo uomo ha fatto cadere un governo, il governo Prodi, ingiustamente, perché si è messo, voleva arrestare il ministro. Un'inchiesta di Vutko, tu dici, nasce già malata. Prima di esprimere un giudizio aspetterei un attimo. Però il fatto è questo: se una cooperativa compra i libri di D'Alema, l'hai mai letti? Il vino di D'Alema l'hai mai bevuto? Diciamo la verità. Non l'hai mai bevuto il vino di D'Alema? Non è un reato, e non te lo sei fatto mandare. Pare che sia, lui dice che è buonissimo. Dicono che è buono. Io l'ho fatto recensire, esce domani la recensione del mio critico enologo, dice che è un buon prodotto, che è un buon vino. Ah, pure. La vicinanza e il rapporto tra D'Alema e Saluzzi si fa sempre più stretto. Io spero in qualche bottiglia gratis, perché non la pago. Come non la paghi? È un libro non la pago, se vuole me la manda come gentile onesto. Un libro ci mette dentro altro che solfito. No, il libro di D'Alema è troppo, il vino ci posso arrivare. Il libro deve essere troppo. Ora, se non lo pubblichi col giornale, comprare un libro di D'Alema è un indizio, questo condivido che è un indizio di qualcosa che non va. Se una cooperativa compra 500 libri di D'Alema e 2000 bottiglie di vino di D'Alema con tutti gli enologi e i vini che i vitigni, le coltivazioni di vini, le case. Sì, ma voglio dire, non cadiamo, noi viviamo un po' in questo mondo. Sappiamo quante associazioni, quante industriali per Natale comprano i libri delle banche piuttosto che degli scrittori. Non è mica reato, può essere. Ma non ho detto che è reato, ho detto che semplicemente questi qua che poi fanno affari, ho capito, siccome questi qua poi fanno affari con gente del Partito Democratico, legati, perché D'Alema non è che è lì in pensione come dice lui, cioè uno che ha mille legami con un sacco di amministratori locali. No, ma io sostengo da tempo non sospetto che il Partito Democratico ha una quantità di ladri e mascalzoni identica, in una percentuale identica a quella degli altri partiti, e dirò di più, della società civile. Non è che perché uno è del PD non è ladro. Cioè, secondo te è un partito. Ma non ho capito la mascalzonata di D'Alema. Un partito, lui non ha parlato di mascalzonata di D'Alema. Anzi, al contrario, ho parlato di un partito di ladri e soprattutto di ladri e mascalzoni, secondo te? Beh, ma nessun partito è di ladri e mascalzoni. Nei partiti, cioè nel PD ce ne sono molti, però. Ma come c'è tra i giornalisti, tra i medici, tra gli avvocati, tra chiunque. È una categoria umana quella dei ladri mascalzoni, che è in percentuali uguali in qualsiasi in qualsiasi campo. Quindi nel PD ci sono ladri mascalzoni. Qual è la differenza? Che fino a ieri non si poteva dire, perché se solo lo dicevi A, andavi nei guai, e B, loro rivendicano una superiorità etica e morale che non hanno. Adesso cominciano a dire pure loro che c'è qualche problema. Ma voglio dire, prendevano i rubli dalla si finanziavano coi soldi del nemico dell'Occidente, perché l'Unione Sovietica, non la Russia di Putin, l'Unione Sovietica aveva le testate nucleari puntate su Mosca. Non lo dire a Parenzo che queste si finanziavano coi soldi del nemico. Non lo dire a Parenzo, che è affezionato a quel mondo. Sembra una roba molto simpatica. È affezionato a quel mondo, è affezionato a quel mondo. Guarda che va affezionato a quel mondo. Per esempio, Landini, secondo te ha mai lavorato in vita sua? Ma i comunisti hanno firmato la Costituzione italiana, se lo ricorda il nostro Sallusti. Ma questa è un'aggravante se l'hanno firmata. I comunisti hanno firmato la, infatti. No, non solo, l'avessero firmata anche poco, e l'hanno addirittura ispirata, perché appunto, esperti costituzionalisti sostengono che la Costituzione italiana è stata copiata come filosofia e impostazione dalla Costituzione dell'Unione Sovietica. Ma perché proprio c'è l'influenza, in parte, sì, di Togliatti, c'è l'influenza. È un aggravante questa, il fatto che l'abbiano firmata i comunisti, cioè la rende peggiore, la rende peggiore. Ma come, che è una, no, delle carte più belle, più invidiate ancora al mondo, con sta retorica, ma quando mai, dai, su, ma quando mai? Siamo due contro uno, stasera ti devi arrendere. Allora, due nichilisti, ma che nichilisti? Non è nichilisti, che non c'entra niente. Landini, come lo consideri, un comunista? Alessandro? Certo. Landini, certo che è un comunista, ma lo rispetto perché non ha vergogna di dirlo. Ha mai lavorato in vita sua, secondo te? Far sindacalista? No, secondo me mai. Mai, come, cioè, no, far sindacalista? Ma come, non ha mai lavorato con Ferrati, non ha mai lavorato con la Camusso, non hanno mai lavorato. Cioè, persone che hanno vissuto sempre sulle spalle degli altri. Insomma, ma come sulle spalle? Sulle tessere di chi le pagava. Sì, sono persone che, come i professori, sanno, probabilmente sanno anche insegnare. Ma non sanno fare ciò che insegnano, quindi Landini sa insegnare come dovrebbe funzionare il lavoro, ma A non sa lavorare e B non ha idea di cosa sia lavorare, quindi le teorie sono tutte belle, financo quelle di Parenzo stanno in piedi, sì, sono stupende, meravigliose. Poi il problema è metterle in pratica. Senti, invece, esiste secondo te una dittatura gay? Sì, in Italia sta nascendo una dittatura gay. Mi risulta che in America e in altre parti del mondo sia già avanti. Esiste una dittatura delle minoranze. Quindi, essendo i gay delle minoranze, si comportano e sono una lobby, e quindi, come tutte le lobby, tendono a essere. A essere delle piccole dittature, cioè, nel senso, se si introducesse il matrimonio, che succederebbe nella società italiana? Cioè, se si introducesse il matrimonio gay, cosa accadrebbe? Ma succede una cosa molto semplice. Dimmi. Che da lì a pochi mesi, credo, il primo islamico italiano, comunque, che è qui, fa ricorso al TAR, perché dice: nel momento in cui cade la legge che dice che il matrimonio può essere solo tra un uomo e una donna, e quindi voi mi dite che può essere anche tra due uomini, io voglio che lo Stato mi riconosca il matrimonio con le mie quattro mogli. Quindi, che problema c'è? Il passaggio successivo è la qual è il problema? Niente. Il passaggio successivo, scusa? Morale, il passaggio successivo? Ma l'INPS italiana è in grado di mantenere le quattro mogli, le quattro mogli dell'imam, diciamo. è questo che mi provoca. Secondo te dal matrimonio gay ci sono molti colleghi che ne hanno anche cinque di compagne, però appunto, non chiedono. Ma chi ce n'ha cinque? Scusa, chi è che ha cinque compagne? No, in generale. Scusami, appunto. Ci sono harem de facto, ha ragione Sallusti. No, però nessuno chiede un riconoscimento. Nel momento in cui cade la nostra, si passa alla poligamia, si passa alla poligamia. Anche legislativa, si basa, il nostro diritto si basa sul fatto che famiglia è un uomo e una donna in gravidanza. Ma se uno è così, punto, pazzo da voler tre mogli, o va incarcerato, ma perché non un uomo, un animale? No, perché no? No, ma scusa, cioè, aspetta un attimo, perché non, perché, cioè, dopo il matrimonio gay, secondo te c'è la strada aperta, che ne so, alla poligamia, hai detto, no? La poligamia, ma perché no? In teoria, un uomo è un animale, io amo il mio cane, lo voglio sposare, perché no? Ma scusa, però, Alessandro, no? L'amore tra un uomo e un uomo, tra l'uomo e un animale, sarà diverso o no? Se amore è uguale matrimonio, io posso amare uno del mio sesso, tre del mio sesso, ma non un animale, ma non è necessario, una pianta, una cosa, ma non è necessario riconoscerlo. È esclusivo il matrimonio uomo-donna. E va bene tutto. No, ma il passaggio successivo è semplicemente il matrimonio uomo-uomo e donna-donna. Punto, finito, non tra uomo e animale. Ma capisci che allora siamo. Chi decide che il paletto. Vabbè, ma è chiaro che non sarà mai ammessa la poligamia in Italia. Dai, su, mica hai timore che venga ammessa la poligamia. Ma di fatto c'è già. A parte che siamo poligami di fatto, ma un conto è esserlo di fatto. Ah, davvero? Ma io sapevo che la chiedere allo Stato di riconoscere le cose. Come sei ma ho capito, ma sono due cose diverse. Il fatto che io sono a favore favore del matrimonio tra uomo e donna e donna, ma non sono a favore ed è impossibile che si verifichi. No, io sono a favore che ognuno ami chi vuole. Ma, vada a letto ma anche io vuole, anche del con matrimonio. Uno, con due, con cinque, con sette. Il matrimonio è una responsabilità che si prende lo Stato, quindi ho capito, è una ma cosa uomo... diversa dall'amore o dalla libertà. Ho capito, ma allora i paesi che hanno ammesso il matrimonio tra uomo e donna sono pazzi? Quei paesi che hanno ammesso il matrimonio... Non sono, sono paesi che hanno, i primi che l'hanno fatto sono paesi che hanno culture, radici, ma l'ha fatto la Spagna, società completamente diverse. Ma l'ha fatto la Spagna, la Germania, ma ha praticamente un istituto che è come il matrimonio tra uomo e uomo, non mi pare che sono paesi incivili, sono paesi dove si è deciso a un certo punto che uomo e donna si possono sposare, possono avere degli istituti giuridici che riconosco... Mi spieghi perché uomo contro donne no, donna contro uomini no, qual è il... Vabbè, ma è diverso. Dai Alessandro, però tu sei, sei intelligente, non puoi non arrivare alla conclusione. Ma sì, perché uomo contro un uomo contro donna non è nulla, è, non, non può essere un istituto guarda giuridico. Ci sono molti paesi al mondo che è così, fino a quattro donne è riconosciuto. Cioè, ma paesi quali? Che, quali paesi? Arabi, paesi arabi, paesi, cosa... paesi islamici. Ma scusami, dai, su. Ma premesso che già sposarsi una volta... Un paese islamico. Ma secondo te la vicinanza... Nel momento in cui emettiamo sentenze verso cittadini islamici che riconoscono l'attenuante culturale. Vabbè, ma quelle sono forse impedire alla bambina di uscire senza velo, di uscire coi jeans, non è così grave come se lo fa un padre italiano a cui porterebbero via la ragazzina. Vuol dire che noi ci stiamo andiamo verso... Vabbè, ma quelle sono sentenze singole, ma no, Alessandro, quelle sono sentenze singole che non hanno nulla a che fare con un quadro generale. La cosa generale è molto semplice. Esistono paesi dove c'è non il matrimonio tra uomo e tre donne o tra uomo e un cane. Il matrimonio tra uomo e donna e donna si chiama matrimonio gay, è riconosciuto in diversi paesi del mondo. Uno sì, può anche se uno ammette quello, si arriva al matrimonio tra un uomo e tre animali o tra un uomo e un animale. Sì, ma il problema è perché esiste il matrimonio. Il matrimonio esiste nell'interesse dei contraenti. E per fare il matrimonio che? Esiste perché lo Stato per fare i figli. Deve tutelare il fatto che un uomo e una donna possono fare un figlio. Per lo Stato cos'era? Una volta era un soldato, adesso è un pagatore di tasse, cioè è colui che garantisce la difesa. Ma scusa, ma poi parli tu che hai avuto un sacco di matrimoni. Per cui quello non è il principio che fondante del matrimonio. È un interesse dello Stato tutelarlo, perché tutela un pagatore di tasse e una volta un soldato. La vicinanza con la signora Santacchera non so quanto sia positiva da questo punto di vista. Lei è venuta da noi a dire che è molto possessiva e gelosa, ma è vera sta cosa o no? Questo è molto bello questo. Sì, abbastanza vera, sì. È vero, sì. Ma è vero che ti tormenta con le telefonate, è ossessiva. Sono incombente. Quando sto con qualcuno che amo, sono incombente. Così ha detto, ti assicuro. Fa controlli a campione. Ma veramente fa controlli? Guardi a campione. Sei terrorizzato o no? Un po'. No, ogni tanto. No, alla mia età. Perché sei no, fedele, perché sei un uomo fedele. È sereno come Sereno D'Alema. Stai serena Daniela, non è bello però, non è bello. Quante volte ti chiama al giorno, scusami, no, per curiosità? No, ci sentiamo abbastanza spesso. Una volta gli hai chiesto in televisione dalla Costa Magna, se non sbaglio, di dedicare, che lei, insomma, dedicami più tempo. Non c'è mai. Non c'è mai, pure te non è che sei così. No, questo aggrava la cosa, ma nella mia concezione maschilista la compagna si adegua agli impegni del marito. La pensi così, che la donna si debba un po' adeguare? Vecchia scuola, cosa deve fare? Sei vecchia scuola, mi sa che sei capitato male però. Ma tu te la sposeresti o no? Cosa? Te la sposeresti? È presto. Oppure no, ma hai già dato da quel punto di vista? Come si fa a risposarsi di nuovo? L'ho già dato un paio di volte. No, a me piace sposarmi, l'ho già fatto un paio di volte. Appunto. È come catering, prendi il vino di D'Alema, scusa. Scusa? Prendi il vino di D'Alema. Il vino di D'Alema. Va bene, ciao. Se mi risposo, userò il vino di D'Alema catering. Buona serata. Ciao Alessandro. Ciao. Ormai è tutto degradato. Fabio da Roma, vai Fabio! Pronto? Dimmi. Aspetta che stacco viva voce prima che mi mandi a fanculo. Bravo, allora. Bravo Fabio, ecco. Bravo. Senti bene? Ottimo, dimmi. Volevo dirti una cosa sui rom. Tu mi stupisci quando parli dei rom, perché secondo me non sei una persona razzista, però sul tuo discorso rom è completamente razzista. Cioè se un rom delinque... oppure educa al figlio a rubare, tutte quelle cose che chiaramente sappiamo tutti che i rom fanno, non vuol dire che è una categoria di persone, perché è la stessa cosa, la fanno gli italiani, la fanno i tedeschi, la fanno qualsiasi allora, persona. Caro, è un delinquente, è un delinquente. Ma certo, ma non c'è dubbio su questo. Caro Fabio, il punto è molto semplice. Io non sopporto l'idea che ci debbano essere dei ghetti. Che le persone debbano essere considerate diverse perché hanno la pelle di un certo tipo, perché sono rom, eccetera. E va bene. Allora, va bene. I rom per me praticamente non esistono. Cioè, i rom sono cittadini come gli altri, se sono italiani, essendo cittadini come gli altri, qualsiasi cosa li confini in un ghetto è sbagliata. Dunque, i campi, quando io dico che non devono esistere i campi rom, dicono che i signori rom, siccome l'Italia non ammette l'esistenza, come dire, di enclave, no? Non è che ammette l'esistenza di stati negli stati, non esiste. Siamo sul territorio italiano, tutti siamo assoggettati alla stessa legge e alle stesse identiche regole. Ma questo, e dunque, ma questo in Italia non esistono le comunità formate da più famiglie, le comunità formate, non esiste tutto questo nell'ordinamento italiano. Esistono le persone, le famiglie, quello che è riconosciuto dalla Costituzione. Benissimo, allora i signori rom, che siano rom sinti, che siano italiani, che non siano italiani, se devono cercare una casa, vadano in agenzia, ce ne sono tantissime, vadano sul giornale, si rivolgano agli amici, se hanno diritto si rivolgano agli uffici comunali per le case popolari e facciano come fa qualsiasi italiano. Altre cose per me non esistono, punto. Che poi i crimini vengono commessi e molti rom, la percentuale molto alta di rom siano dediti, come dire, a traffici illeciti. Questo mi sembra, nei fatti, mi sembra abbastanza evidente. Dipende da comunità e comunità, da città e città. Comunque il tasso di criminalità all'interno dei campi rom è molto alto. Io solo questo dico. Non riconoscere questo significa tapparsi gli occhi, chiaro? Ma però su questo io sono d'accordo con te. Se un delinquente, va arrestato comunque. Il problema è che quando tu però parli con i rom hai un atteggiamento razzista nei loro confronti. Ma io figurati, non ho nessun atteggiamento razzista. Io distingo le persone non in base al fatto che puzzano, che hanno le gonne larghe, cioè, distingo le persone in base al fatto che siano delle brave persone o delle cattive persone. Dai. Va bene, un'altra cosa al volo. Dimmi, sugli animali. Quando anche mi fa incazzare, anche quando parli degli animali. Io non sono un vegano, sono d'accordo con te su quegli estremisti. Tutto quanto, però sono un amante degli animali. Il problema, ma quello anch'io, che c'entra? No, però tu non ce li ho detto... perché non ho tempo a dedicarmi agli animali. Spesso hai detto cose che vanno. Allora, il problema è che la sofferenza di un animale gratis non si deve fare. Cioè, io sono carnivoro come te, mangio carne, però vorrei che l'animale che viene ucciso poi per essere mangiato. Quella vita che fa, più o meno lunga che sia, e nel momento in cui deve essere ucciso, deve essere fatto in un certo modo. Non si può fare quegli allevamenti come noi facciamo. Gli allevamenti intensivi sono sottoposti a regole rigidissime, che qualche volta vengono rispettate, qualche volta no. Esistono però gli allevamenti intensivi. Se uno vuole, mangia solo le verdure quando sono buone o quando sono decenti, e non mangia gli animali. Uno, se come dice Merola all'inizio della puntata, se uno si vuole ammazzare con la carne, perché secondo Veronesi e altre persone uno si ammazza, c'ha il cancro, se uno è libero di ammazzarsi, chiaro? Allora, sai chi chiamerei io di nuovo, Parenzo? Io chiamerei di nuovo il signor Dipré. Allora, vogliamo ricordare... Vogliamo ricordare che cosa è successo nell'ultima telefonata con Dipré? Perché è uscita fuori la notizia che Sara Tommasi forse è incinta. Sai che c'è questa follia del matrimonio. Sara Tommasi si aggiunge... L'ha detto lei stessa. Lei stessa ha detto di essere forse incinta, eccetera. Bene. L'ultima telefonata con Dipré, io non voglio chiamare Sara Tommasi, mi voglio rivolgere a Dipré perché mi scandalizza il fatto che un signore come Dipré cerchi di sfruttare ancora una ragazza chiaramente malata. L'ultima telefonata con Dipré è andata in questo modo. È un fidanzamento stupendo e devono smetterla di rompere i coglioni a due persone che si vogliono bene. Abbiamo diritto ad un rispetto totale e assoluto. Tutti quelli che spettano contro sono dei coglioni testa di cazzo che non capiscono cosa vuol dire un sentimento quasi paragonabile a quello di Petrarca o Dantesco. Questo era il Dipré. Io voglio richiamarlo ancora per questa storia di Sara Tommasi incinta, perché veramente è troppo, lo sfruttamento di questo signore che si chiama Andrea Dipré. Sappiamo già la storia di Dipré, è incredibile lo sfruttamento della malattia di una ragazza. Non risponde. No, risponde. Vedrai che risponde, secondo me. Sì. Di Pre? Sì. Sono Cruciani, ciao. Parenzo. Come va? No, bene, bene, voi? Bene. No, brutta voce, c'hai una brutta voce. Che stai facendo? Comunque ditemi cosa posso esservi utile. Sei in down, di coca? Sei giù. Ma la coca è superata, sì. Che te fai adesso? Il dipreismo l'abbiamo saputo, adesso che c'è dopo la coca? Io sono molto ultimamente a favore dell'MD. Stai rovinato, rovinato. Ma sapete, perché non mi chiedete qual è il mio lavoro? Ma che lavoro? Ma come sbaglio a lavorare? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Avanti, diccelo. Che lavoro sapete fai? Che io odio il lavoro, cioè il lavoro non esiste nel mio vocabolario. Però se uno mi dovesse chiedere oggi... Che lavoro fai? Tu come rispondi? Direi che sono capo di una religione. Capo di una religione, bene. Sì, no, d'accordo, capo di una religione, siamo veramente d'ambulanza, vera? Bene. Oltre che d'ambulanza saresti da rinchiudere. A me fa piacere sentirvi, però vi dico che... Potete capire come se avesse chiamato il Papa. Sì, certo, come se avessimo chiamato il Papa, certo. No, vabbè, ma... Che ne so, il Dalai Lama, Dalai Lama. Ora, l'unica figura che può essere comparata a me, sì. Però cioè, dove non dico di essere superiore o inferiore, ma può essere comparata. Comparata, certo. È Gesù Cristo. È Gesù Cristo, bene. È chiaro. Tutto chiaro. È chiaro. Tutto chiaro. Mi sembra evidente. Beh, scusi, questo? Signor Gesù Cristo. Ecco. Signor Gesù Cristo, lei lo sa che dà dei messaggi... Scusate, soltanto che la mia fede si basa sul motto, tutta la notte, coca di gnotto. Vabbè, quello l'abbiamo, lo sappiamo. I risultati sono drammatici. Caro Gesù Cristo, l'MD o le altre droghe fanno molto male. Tu dai un messaggio, siccome vai poi sul web a dire queste stronzate, dai un messaggio ai giovani, ai ragazzi, che è devastante. Te ne rendi conto o non te ne rendi conto? Ma fanno veramente male? Ma sai che la droga ha salvato la mia vita? La droga ha salvato la tua vita, amico mio. Come stai? Ma guarda come sei ridotto, scusami, abbi pazienza. No, come fai? Capo di una religione. Ma quale capo di una religione? Ma per chi? Quale religione? Sono capo di una religione, ma ci rendiamo conto da solo, sono riuscito. Vabbè. Però io non ti... Ma quanti seguaci ha... Tutto il mondo. Ma quanti seguaci ha... Sì, milioni. Andate a vedere. Milioni di neuroni bruciati. Noi vogliamo capire perché continui... Tu puoi fare quello che vuoi nella vita, riempirti di droga, pensare alla religione, eccetera, eccetera. Poi ognuno può fare quello che vuole nella vita, in piena libertà, basta che non infrangi la legge, eccetera, eccetera. L'unica cosa che non devi fare è continuare con questa farsa... Quale legge? La legge di Preista? Io sono... La legge di Preista. Vabbè, la legge di Preista. Vabbè, tu rispondi solo alla legge di Preista. Benissimo. Poi quando verranno i carabinieri ad arrestarti per reati, poi gli dici: io sono il dipreismo. Però anche Cristo ha avuto dei casini. Anche Cristo ha avuto dei casini. Certo, non c'è dubbio. Ma è interessante questo. Interessante. Soprattutto in tribunale uno dice: anche Cristo ha avuto dei casini. Sono Gesù Cristo. Una cosa, posso dire questo: la Pasqua di Preista è l'11 ottobre. La Pasqua di Preista è l'11 ottobre. Questo è importante. Sicuramente questo dall'ascolto se lo segnalano in agenda. L'11 ottobre è la Pasqua di Preista. Però, caro Di Pre, basta con questa storia di una povera ragazza che sta male, che tu continui a sfruttare e continui a peggiorare la situazione. Ma è vero che è incinta o no? Ma è una cosa incredibile, adesso sta storia che è incinta, basta! Ma voi con questo modo di fare state facendo del male ad una persona. Noi non a me non me frega un cazzo, perché tanto a me il cazzo me ne frega. Cioè, ma lei, cioè questa ragazza che si chiama Sara Tommasi, è probabilmente, per non dire di sicuro, incinta di me. Quindi io sono pensionato il 24 maggio a sposarmi. Incinta di te. Ma basta con questa storia. Ma fate del male. Ma stai continuando a sfruttare anche con questa storia adesso che è incinta, a sfruttare una povera ragazza che ha bisogno di aiuto, non di Dipre, non del dipreismo, ha bisogno di aiuto di altre persone, non di te. Sei deleterio, sì. No, guarda, mi piacete perché siete talmente... Ma voi mi rendete conto, lo sapete? Voi state scherzando? Su che cosa? Con uno che ha un capo di... Ma noi non... Vabbè, noi non stiamo scherzando, questo adesso diventiamo... Io sono serissimo su questa cosa qua. Perché continui nella tua follia a coinvolgere anche un'altra persona? Ma è mia moglie, ma che cazzo state dicendo? Ma lascia perdere, ammazzati da solo, ammazzati da solo! La vostra compagna, le vostre cose... direi: ma lo sai che cosa ha fatto? Ma lo sai che è un pazzo che urla alla radio? Ma c'è, ma che cazzo stai dicendo? Io dico solo una cosa: tu devi farti a disintossicare. Non condivido nulla. Ma perché non vai? No, perché non ti disintossichi? Perché non vai subito a disintossicarti dalla droga? Ma perché invece, se io quanto volete per venire a lavorare nella monarchia di Preista? Quanti soldi volete per venire a lavorare nella monarchia di Preista? Venire a lavorare nella monarchia di Preista? Ma di cosa stiamo adesso parlando? Ci pensiamo un attimo. Dai, insomma, veramente. Ci riflettiamo. Dovrei mettermi a ridere di fronte a queste cose tue. Purtroppo non mi voglio mettere a ridere. Scrivimi in privato e dite quanto vuoi e vediamo se possiamo comprare. Ma non voglio nulla. Se non voglio aderire a nessuna nessuna monarchia di Preista. Il 4 maggio vi invito al matrimonio. Ma non ci sarà nessun matrimonio. Perché ti bloccheranno prima, anzi, dovrebbero bloccarti. E cosa risolvono? Cosa risolvono? Ma perché stai sfruttando in maniera vergognosa una ragazza malata? Giulietta e Romeo, è impressionante questa cazzo di storia. Ma quale impressionante? L'impressionante sei solo tu che fai paura perché sei pieno, hai un sacco di problemi anche tu, dovresti essere preso e rinchiuso in una clinica, certo. Forza, dai, per disintossicarti. Festeggiate l'11 ottobre. Ma che cos'è l'11 ottobre? Ma non festeggerà nessuno l'11 ottobre, un giorno qualunque, un giorno del calendario normale, non c'è nessun festeggiamento da fare. Ciao. Venite a Milano a vedere. Ciao, spero che ti blocchino i carabinieri o la polizia prima di fare altre follie con Sara Tommasi, chiaro? Ciao. Per Maurizio Gasparri la vicenda di D'Alema è tutto chiaro. Compravano il vino per dimenticare il contenuto dei libri. Cruciani, gli spiacerebbe andare a fare in culo, no? Segreteria telefonica, vai! Oh, Cruciani, secondo me ha ragione quel panzone di Ferrara. Le pippe fanno bene, ma non perché sono contro l'aborto, quello me frega niente, ma perché le pippe aiutano a dormire, scaricano la tensione, aiutano a sviluppare la fantasia. Viva le pippe! Ma che è sta storia che mettete la pubblicità, il traffico nei podcast? Uno si sente il podcast apposta per non sentirsi stronzate e voi gliele mettete. Io ve lo dico, a me di sapere che c'è traffico tra Rocco Bilaccio e Barberino e Mugello non me ne frega un cazzo. E Capanna ritorna facendo il saccente con Oclocratico. Mamma mia, che pezzo di merda che sei. Ho la massima dedignazione per te, che sei un cucurbita, Capanna. Boldrini, invece di pensare alle donne sui cartelloni pubblicitari, pensa alla povera Ilary Blasi, che con quello spot dello yogurt è 3 anni che invita tutte le donne ad andare a cagare. Forse era la Marcuzzi. Siamo al top, Caro Peppe, volevo dirti che ieri ho mangiato una tagliata di chianina di 0,5 chilo e ho goduto come un matto alla faccia dei vegani, vegetariani, animalisti. Amico mio, sono stato al top. Effettivamente abbiamo creato dei mostri tra voi. Effettivamente devo dire che bisognerebbe cominciare a postare delle foto mentre io vado a mangiare delle bistecche enormi, così delle grandi bistecche, cotoletta alla milanese, chianine, vegani, dove siete? Animalisti, vegani, vegetariani. Dunque mi ha risposto Bitonci. Sì, aspetta. Segreteria telefonica, segreteria telefonica per i vostri augusti messaggi, per i vostri gentili messaggi, per le vostre dolci parole. Il numero della segreteria è il seguente: 02 46 52 40 10. Come ti ha risposto, signor Bitonci? Che hai detto una cazzata, probabilmente, no? No, mi ha ritwittato dimmi. E mi ha scritto, sto tirandotelo fuori, dimmi. No, io gli ho scritto: a Padova il sindaco della Lega Nord, Massimo Bitonci, proibisce la vendita di kebab dopo le 20. Sì, e la polenta, allora? E le sarde in Saor. Sì, vabbè, allora? Ridicolo. Risposta di Massimuccio Bitonci: solo in zona stazione, punto esclamativo, studia. Risposta mia, caro Bitonci, e la pizza si potrà mangiare dopo le 20 in zona stazione? E il baccalà? Ma va! Pur essendo io abbastanza tifoso di Bitonci, cioè penso che alla fine farà bene a Padova, alla fine penso che farà molto bene, il provvedimento che vieta la vendita del kebab in zona stazione non mi trova molto d'accordo. No, non mi trova molto d'accordo. Penso, a Radio Maria penso che sia una stronzata. Penso che sia una stronzata, te lo dico chiaramente. Allora, penso che sia una grande stronzata. Non mi trova molto d'accordo. No, devo capire che cosa c'è dietro. Cioè, ma come c'è la follia? Cioè, in zona stazione per inventare. Siccome immagina che gli immigrati mangino solo kebab, per evitare assembramenti dopo le 20 in stazione, dice vieto la vendita. L'immigrato mangiasse solo kebab. Ma capisci quella follia di questa ordinanza? La follia totale, razzista. Ad hoc per chiudere grosse, il kebab. Mamma mia, dai. Mangiamo tutti il kebab dopo le 20 in stazione centrale. Tutti! Disobbedienza kebabara! Disobbedienza civile radicale in stazione. Padova. Alessandro da Milano, vai Alessandro. Ciao a tutti, Parenzo, Riccardo da Roma, è presente. Vai, dimmi Alessandro, vai. Allora, quello che non ti mettere col viva voce, però Alessandro, su, forza. Viva voce, non ho viva voce. Dai. Richiamami allora, che ti devo dire? Dai, dimmi, veloce, forte, dai. Allora, quello che sto per dire sul kebab toglierà l'appetito a qualcuno, quindi... Dai. Purtroppo è una cosa, una voce di popolo, perché me l'ha raccontata queste storie. Allora? Mi hanno detto che proprio nelle fabbriche del kebab dove lo producono, mi hanno detto dei ragazzini, quindi lascio sempre a tutti il beneficio del dubbio. Alcuni operai usano, che si può dire, la zanzara si può dire. Usano sborrare nel kebab. No, vabbè, dai Alessandro, adesso non si può dire questa cosa qua. Ma dai, una stronzata, dai, su Alessandro, dai. Me l'hanno detto. Ma non ti ha detto niente nessuno, ma che tuo figlio, ma smettila, adesso sei proprio un po' idiota. Ma dai, su, ma siamo alla follia, su, ma che vuol dire? E poi digli di svegliarsi a Parenzo che sembra lobo somatizzato, sembra. Che idiota questo qui, che idiota. Ti ha dato dell'idiota, Alessandro, eh? Ma è il minimo, uno che dice una roba così. Ti ha dato dell'idiota. Tutti bene a casa, Parenzo? Proprio un idiota questo Alessandro da Milano. Un povero idiota, idiota. Che buono, Parenzo. Pensa a te, ma Alessandro, dai, stai sbagliando. Dai, hai detto una stupidaggine. È una voce di popolo. Io ma non è quale voce di popolo? La voce di popolo è che sei un idiota. Questa è la voce di popolo. Lo riporto così come me l'hanno ma detto. Ma lo riporto, dai, aria, dai, flatulenza, non idee. Flatulenza. Giovanni, provincia di Salerno, vai, Giovanni, dimmi. Ciao, ragazzi. Dai, dimmi. Io volevo dire, sta cosa di D'Alema, no? Oramai l'abbiamo appurata, ne avete anche parlato voi, che è una cosa ipocrita e va bene. Quello che trovo strano io è che un politico navigato come il D'Alema non si renda conto che questo atteggiamento da migliorista deteriore sta rompendo i coglioni a tutta la sinistra italiana. Migliorista in questo momento si sentirebbe il bisogno di qualcuno che dica qualcosa di sinistra finalmente e c'è il D'Alema che ci viene a dire questo si può, quello non si può, questo va bene. No, veramente D'Alema in questi giorni sta parlando, è impegnato su altri fronti, mi sembra che, no? Che non è il fronte di fare il bastian contrario al governo. Cioè... Non dico del governo, ad esempio, parlo della. Lui questo atteggiamento da moralista, questo si può fare, quell'altro non si può fare. È proprio il migliorista del deteriore. Cioè, sta riducendo la sinistra italiana al vetero clericalismo dalle mie parti. Vetero? Dice, vetero clericalismo. Ma che vuol dire? Fate i preti, una volta i preti dice fate quello che vi dico io, non fate quello che faccio io. Vabbè, e quindi, Giovanni, arrivederci. Ciao. Cosa è successo nel campo Rom di Tor Sapienza? Cosa è successo? Uno dei capi dei vigili urbani di Roma, sentiamolo. Oh, hanno istigato tutte le persone presenti a rioccupare il centro. Da qui è nata un'aggressione nei nostri confronti, con bastoni, massi di scope, che ci ha costretto ovviamente a difenderci, motivo per il quale abbiamo estratto lo spray al peperoncino, che peraltro ha colpito ovviamente inavvertitamente una bambina. Questa è la versione della polizia locale di Roma, dei vigili urbani, dei pizzardoni di Roma. Però nel campo rom la pensano diversamente. È venuto Di Maggio con la macchina, noi abbiamo preso le sedie che devono andare di là. Lui ci dice: scusa signora, voi dovete uscire di qua, dovete andare a calcio in culo. Le ho detto: ma scusa, come calcio in culo? Che questo è come al campo, al casalino. Ho detto: mi dispiace, ho detto amore, così gli ho detto. Se tu c'hai tuo lavoro, noi ce l'abbiamo il nostro. Mia figlia stava qua vicino al muro, okay. Lei non c'entrava niente. Lui improvviso non ce l'aveva cosa fare con nessuno, è venuto, ha messo spray in suoi occhi e gli ha dato un calcio sulla pancia. Mia figlia, quanto ho visto, che è caduta, io ho detto che è morta. Little Johnny the Cockeroo. Ho detto: cosa hai fatto Di Maggio? Cosa hai fatto Di Maggio? Dice: adesso tutti quanti vi sparo in bocca. Ho detto: cosa ci spari in bocca? Ha tirato la pistola, l'altro, un pelato era, uguale, ha tirato la pistola e fa così. Io gli ho detto: se c'hai le palle, sparaci. Allora, io non so che cosa è successo, se ha ragione il vice capo della polizia, della municipale, se ha ragione questa signora a Rom. Io dico solo che c'è un rapporto malsano, assurdo. Quella che conosce Di Maggio, perché lo conosce? Evidentemente perché lo vede sempre all'interno del campo. Sì. Ma dai, su, ma è una situazione assurda, dai, una situazione assurda. Poi se questo, io dubito che uno della polizia municipale andando nel campo Roma ha preso a calci in pancia una bambina. Adesso, francamente, poi per carità, esistono degli animali ovunque. Se uno ha preso a calci una bambina, come dice questa signora, è giusto, sì, che paghi. Non penso neanche. Ma non lo so, magari nel parapiglia, non lo so, non lo so. Luca da Firenze, vai Luca. Luca. Luca. Luca, niente, Luca da Pescara, allora vai. Ah, sono io, pronto, buonasera. Vai, dimmi. Ciao, senti, io ti chiamo per sei veramente indisponente nel momento in cui parli degli animali, guarda, veramente incredibile. Indice di una, non insensibilità, ma di un'ignoranza becera sull'argomento. Cioè, in che senso? Spiegami. Dire che gli allevamenti intensivi siano qualcosa di regolamentato dalla legge. Beh, certo che non sono mica illegali. Ma te che? Ah, sono illegali secondo te? Assolutamente. Ah, sono illegali, benissimo. Gli allevamenti di polli sono illegali. È arrivato Luca e ha detto che gli allevamenti di polli sono illegali. Va bene, d'accordo. Numero uno, secondo te un pollo vorrebbe correre o no? Ma io non lo so. I polli si mangiano. Arrenditi, arrenditi. I polli si mangiano. I polli si mangiano. Arrenditi, arrenditi. I polli si mangiano e si mangiano. Mangeranno sempre, per fortuna. Arrenditi, arrenditi, arrenditi. Chi accetta le regole, il luogo comune. Vabbè, il luogo comune. Non approfondisci. Dimmi, avanti. Non approfondisci. È arrivato il piccolo borghese. Che c'entra piccolo borghese? Che c'entra piccolo borghese? Non contemporaneo. Ma che detto? Non hai il senso della visione lunga delle cose. La visione lunga delle cose. Non ce l'hai. Vabbè, ma lascia perdere la versione della visione lunga. Che non ho capito che cosa mi vuoi dire sugli animali. Accetti criticamente il fatto che un po' lo debba morire in una gabbia, cioè soffrire una gabbia. Amico mio, caro Luca, amico mio, esiste da che mondo è mondo, esistono i polli che si ammazzano e se li mangiamo i polli. I polli se li mangiamo. Scusami, tanto a me piacciono i polli. Dunque, non mi rompere le balle. Io mi voglio mangiare i polli. I polli per legge. Vabbè, ma tu sei malato, se uno vuole fare, vuoi proibire impedito, vabbè, a mangiare un pollo. Vedi gli estremisti. Che estremisti, che questo vuol dire essere santi. Santi, cioè, che estremisti, cioè vuol dire per te il pollo è come un essere umano. Per te il pollo è come un essere umano. Ne vogliamo parlare? Assolutamente, e lo dice pure, capito? Assolutamente sì, è come un essere umano. Ma perché ti chiami? Ma perché non chiami Leonardo Caspo e parli con lui in diretta? Leonardo, ti lascio questa proposta. Leonardo Caffo è un emerito filosofo, un filosofo animalista, signor Leonardo, una persona Caffo. Non estremista. Bene. Non estremista, una persona molto ragionevole. Sì, parla Leonardo con lui Caffo. Che ti fa un culo così. Ma può darsi, parla con lui, così, ma non lo escludo, non lo escludo. Ma sì, Leonardo Caffo, cioè, ragiona con lui, sì, per sì. sillogismi. Per sillogismi, per sì, pancia, così, c'è così spengono la radio dopo 2 secondi. Sì. No, ragiona con lui, con Leonardo Caffo. Parla Senti, con lui, caro Luca, questo non è un simposio sull'animalismo. Tu mi hai detto. Tu mi hai detto due no, tu mi hai detto due cose, ma su questo c'è da discutere ovviamente. Tu mi hai detto due cose. Sì. Uno, che i polli per te sono come gli esseri umani. Ma se lo posso dimostrare, mi dai tempo? Sì, ma certo, dimmi perché. Ma brevemente, però 30 secondi, sai, questa è la radio, non è un convegno di filosofia. No, non è un convegno, semplicemente perché si parte dalla questione del dolore. Il dolore fisico e il dolore emotivo che provano anche gli animali. Non di conseguenza, provando. Ma questo può darsi, essere... questo può darsi. Allora, chi cazzo allora? Ha il diritto a vivere un animale? Ah. Essere senziente. Chi ha il diritto Beh, di soffrire per amico per mio. Per dunque, tutti quelli che mangiano polli, eccetera, sono tutti criminali, secondo te? No, non sono criminali. Assassini criminali. Non sono così stupidi. E allora? Del genere. Sono persone che acriticamente accettano il luogo comune. Ah, beh, c'è acriticamente il luogo comune. Per cui, quando tu vai a fare la spesa, e c'è davanti alla bistecca, e ovviamente tu non vedi l'animale. Perché è impacchettato. No, lo vedo, come no? So benissimo allora che viene da luci. Sono un bastardo. Vedi, siamo arrivati alla conclusione. Se tu mangi una persona, cioè se tu mangi l'agonia di un animale. A me piace la carne, i polli, gli animali. Sì, ma anche a me piacerebbe che qualsiasi cosa, ma io anche a me piaceva la carne. Sì. Sei salito di grado, diciamo, sei diventato più. Redimiti. Vabbè, ma siamo la malattia, tu lo sai che siamo la malattia, sì. No, tu sei la malattia. Tu sai di essere malato in fondo. No, tu sai di essere malato. Cioè, Leonardo Caffo, ti prego. Leonardo Caffo, che ne so, un filosofo, vabbè, ma il nome mi dice qualcosa. Chiamalo. Vabbè, Luca. Leonardo Caffo. Ciao. Chiamiamo Caffo. Simona da Siena, adesso chiameremo sto Caffo uno di questi giorni. Eccomi qua, buonasera. Vai, Simona, dimmi, cara. Allora, io volevo rispondere, innanzitutto vi saluto a tutte e due, sia David. Vai veloce, dimmi. Allora, volevo rispondere semplicemente a Sallusti di una cosa, che si è dimenticato da dire, la cosa più importante. Cioè? Allora, lui ha paragonato praticamente una pianta o un cane, che sono animalista anch'io, quindi tanto di rispetto, ma ha paragonato un cane a un essere umano. Sì. Ma si è dimenticato di dire una cosa fondamentale, che gli esseri umani adulti sono persone consenzienti. Sì, beh, certo, rispetto agli animali. Beh, sì, è un altro elemento. È chiaro che Sallusti è una persona troppo intelligente per dire queste stronzate, avrà fatto un po' di folklore, insomma. No, ma che folklore, ci credeva? Lui pensa che introdurre il matrimonio gay sia la porta di accesso poi per il matrimonio tra uomo e tre animali, tra un uomo e tre donne, tra due donne e quattro uomini. Ha detto questo. E allora io dico, non essendoci più limiti, dice, a quel punto verrà ammessa anche la poligamia, eccetera, eccetera. Io allora a questo punto dico a Sallusti, se ci ascolta, si è dimenticato di dire una cosa fondamentale. Che io, donna, se voglio sposare una donna adulta, siamo due persone adulte e consenzienti, perché accettiamo di fare un certo atto, diciamo. Un cane non può essere consenziente. Ma non c'è dubbio. Grazie. Stefano Latina, vai. Stefano. Sì, ciao. Sì, però più forte, però amico mio, più forte, se non si sente niente, dai. Vai. Mi senti così? Perfetto, dimmi. Ottimo. Allora, è vero consenzienti, non consenzienti? Non sento niente, Luca da Firenze, Luca. Ciao Cruciani, buonasera, saluto anche Parenzo, numero uno. Senti, due cose volevo intervenire, uno sui rom e due sugli animali. Allora, punto uno, i rom, troppo buonismo. A me i rom mi danno fastidio. Io quando sono a Roma, che ho l'ufficio accanto al campo rom, non posso lasciare i pad, il portatile in macchina, perché mi aprono il cinesino, mi danno fastidio. Sì, però io, amico mio, devo dirti la verità. Quando sono a Milano, che devo prendere la metropolitana, e ho lì la signora che mi dice, metti il biglietto qui, metti il soldo. Io ho una laurea, ho un piede. Però se tu lasci non mi posso rompere le balle lì, d'accordo, ti voglio segnalare al biglietto della metropolitana. Va bene, d'accordo, ti voglio segnalare, tutta la mia comprensione, però ti voglio segnalare che se tu lasci l'iPad dentro la macchina, rom o non rom, la macchina te la fanno uguale. Questo bisogna dirlo, poi hai pure ragione sui campi rom, sui quelli che vengono a rompere i coglioni alle biglietterie, va bene tutto, però se lasci l'iPad e altre cose dentro la macchina, te li fottono lo stesso, rom o non rom. A domani 18:30, ciao Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire.